Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia in una giornata, come molti di voi già sanno, particolare per anche per Radio 24. Oggi non era in edicolo il quotidiano, la radio, l'assemblea dei giornalisti della radio ha decretato lo sciopero congiuntamente a quello del quotidiano e dell'agenzia di stampa Radio Core. Alcuni conduttori hanno scelto liberamente di andare in onda, altri no. Il sottoscritto ha già chiarito la sua posizione: non faccio parte dell'assemblea dei giornalisti. Ma al di là di questo, che penso che sia poco interessante, veniamo di capire che cosa sta succedendo invece sul fronte della giornata economico-finanziaria, e mi riferisco da un lato di nuovo ad alcune valutazioni su spread e andamento dei titoli di Stato. Perché? Perché in questo caso è calato a 165 punti base, tassi all'1,93%. Oggi le due notizie più importanti di carattere economico-finanziario si chiamano: da un lato dato sul PIL, e perché? Perché l'Istat ha diffuso il dato sul terzo trimestre, c'è stato un leggero rimbalzo, più 0,3%, su base annua. A questo punto la crescita dell'economia italiana va allo 0,9%. La crescita acquisita è allo 0,8%. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se anche nell'ultimo trimestre non vi fosse crescita, vi fosse pari a zero, la crescita di quest'anno sarebbe già 0,8%. A quel punto devo dire che, visto che è difficile che il trimestre, l'ultimo, faccia zero, ci avviciniamo a quella che è la stima di tutti, a questo punto, tutti gli organismi internazionali, e cioè uno 0,9% di crescita quest'anno. Il problema a questo punto sarà capire come entreremo nel 2017, quindi non sarà irrilevante vedere se saranno 0,2, 0,3 o 0,1 il dato sull'ultimo trimestre. Parleremo anche di questo, ma parleremo anche del Monte dei Paschi, perché ieri è stato annunciato il lancio di una offerta pubblica di acquisto su 11 obbligazioni subordinate del valore di 4 miliardi e 289 milioni di euro, con l'obbligo per gli aderenti di reinvestire il corrispettivo incassato in un aumento di capitale da 5 miliardi. E quindi la conversione, il prezzo della conversione sarà compreso tra l'85 e il 100% del valore nominale. Oggi il Monte dei Paschi ha fatto notare che se la conversione dei bond non avesse un esito soddisfacente, le banche del consorzio potrebbero sottrarsi all'impegno di garantire l'eventuale inoptato, cioè quello che non viene sottoscritto, dall'aumento di capitale da 5 miliardi di euro. Il titolo oggi in borsa, ieri era molto forte Monte dei Paschi, lo ricorderete, oggi tutti i bancari sono decisamente deboli. Per quello che riguarda i bancari in generale, segnalo che il peggiore è il titolo UbiBanca, meno 5,50, segue Unicredit meno 3,80, Intesa San Paolo meno 2,60, Banco Popolare meno 2 e Popolare di Milano meno 2%. In assoluto il peggior titolo è Salvatore Ferragamo, meno 7,30%. Però dicevo, sul fronte invece di chi guadagna, visto che do anche chi guadagna, Saipem più 3,70, Campari più 2,5, Snam più 2, Enel più 1,70, come Buzzi Unicem, Eni più 1,70 anch'essa, Terna più 1,40%. Mi chiedete di adesso, arriveremo anche ad altri titoli, però la cosa importante da notare da questo punto di vista è che, oltre a Ferragamo e UbiBanca, il Monte dei Paschi, dopo l'annuncio di ieri, perde il 9,90%, e qui volevo arrivare, a 25 centesimi di euro per azione. Ne parleremo. Per quello che riguarda i mercati, segnalo che complessivamente la borsa è praticamente invariata, meno 0,1% Milano, più 0,60 Parigi, più 0,30 Francoforte, più 0,50 Londra, il Dow Jones meno 0,20%, euro su dollaro a 1,07. Ci occuperemo quindi del dato sul PIL, del rapporto del CERVED oggi sulle piccole e medie imprese italiane, perché come ogni anno viene pubblicato il rapporto CERVED, che è un rapporto annuale solo sulle piccole e medie imprese italiane. Vedremo che segnali ha fotografato il CERVED. Ripeto, però, non sono segnali complessivi, non prende in considerazione gli esercizi commerciali o le grandi imprese. E ancora, oltre che di PIL e di rapporto CERVED e della giornata in borsa, ci occuperemo del consiglio di amministrazione del Monte dei Paschi, del titolo Unicredit oggi in calo, ma ieri già abbiamo accennato alle indiscrezioni su una possibile interessamento di un possibile interessamento di Société Générale. E ancora parleremo però anche degli Stati Uniti. Che cosa è successo? Allora, Trump ha detto, da quello che si è capito da un memo del Transition Team ottenuto dalla CNN, la rivoluzione della politica commerciale americana è cominciata il primo giorno di presidenza Trump. Però, e quindi quello dovrebbe essere uno dei primi atti, tra questi appunto la rinegoziazione o il ritiro dal NAFTA, dal trattato del commercio con in primo luogo il Messico, c'è anche il Canada nel NAFTA, però è il Messico l'obiettivo. Primi problemi per la squadra di Donald Trump, tra l'altro per alcune tensioni sull'ipotesi che Rudolph Giuliani, l'ex sindaco di New York, diventi segretario di Stato, cioè ministro del governo Trump. Da questo punto di vista ci sono i più stretti collaboratori che lo appoggiano, altri che storcono la bocca. Invece per il tesoro restano in lizza l'attuale numero uno di JP Morgan Jamie Dimon e l'ex Goldman Sachs Steve Manchin. È circolato anche il nome del finanziere Carl Icahn. Ne parleremo anche perché oggi Barack Obama è arrivato ad Atene, prima tappa del suo ultimo tour europeo da presidente degli Stati Uniti, che lo porterà anche a Berlino. Ancora il numero per i vostri sms è 349-238-6666, sia per sms che per WhatsApp. Alcuni che scrivono sull'adesione allo sciopero, guarda, l'adesione allo sciopero è un atto libero, per cui alcuni conduttori lo fanno e altri no, nella massima libertà. Ripeto, l'ho già chiarito ieri, io non faccio parte dell'assemblea dei giornalisti, quindi non posso né aderire allo sciopero né non aderire, per cui mettetevi il cuore in pace. La solidarietà ai colleghi l'abbiamo espressa in tantissime occasioni e abbiamo anche chiarito, lo dirò una volta ancora di più, di distinguere, e invito anche alcuni ascoltatori a distinguere, tra la valutazione sui colleghi, quindi sul prodotto giornalistico del sottoscritto, dei colleghi della radio, del quotidiano, dell'agenzia di stampa. Può piacere, può non piacere, possiamo essere considerati preparati, non preparati, ma questo è un giudizio che davate e che uno poteva dare anche 2 mesi fa, 4 mesi fa o fra 2 mesi. Altra cosa è la gestione manageriale del gruppo Sole 24 Ore, che è sotto gli occhi di tutti. Io ho solo invitato più di una volta a non confondere tra la qualità del prodotto giornalistico su cui uno può dare il giudizio che vuole con la gestione, che è stata fatta chiaramente piena di errori in questi anni, del gruppo inteso come società quotata e gruppo editoriale. Ripeto, uno può anche pensare che il sottoscritto e i giornalisti di questa radio del Sole non capiscono nulla, ma lo pensa al di là di quella che è la gestione manageriale, e viceversa, uno può ritenere che i giornalisti del Sole 24 Ore, tutti inclusi, siano competenti e preparati al di là della valutazione che dà sulla gestione manageriale del gruppo, che è sotto gli occhi di tutti. Le notizie in breve. Allora, per quello che riguarda le altre notizie in breve, l'effetto Trump più che sull'euro si sta realizzando sulla valuta cinese, il yuan. Perché lo dico? Perché è ai minimi da 8 anni sul dollaro ed è dell'ottava seduta in calo. La banca centrale cinese ha fissato un livello di parità a 6,8495 nei confronti del dollaro. Ripeto, la cosa, da quello che si è capito, la prima iniziativa, una delle prime di Trump sarà proprio la rivoluzione della politica commerciale, sappiamo qual è l'obiettivo di Trump, più protezionismo, chiamiamolo così, revisione di tutti i trattati commerciali e minore adesione anche a trattati di libero scambio. Poi uno anche qui lo può pensare come vuole, farà bene, farà male Trump, ma mi sembra che sia abbastanza netta la sua posizione. Tra l'altro Obama ha detto di essere pronto con il suo team ad accelerare i prossimi passi verso la transizione, aiuterò il presidente eletto ad affrontare questa grande sfida. E poi Obama sull'austerity, arrivato ad Atene, ha detto: i creditori aiutino la Grecia sulla strada della ripresa, bisogna tornare a crescere e creare posti di lavoro. E poi ha aggiunto una frase che trovate anche in molte agenzie: l'austerità da sola non porta prosperità, un'altra, diciamo, cosa che era già emersa in questi anni come posizione della Casa Bianca, nella Casa Bianca di Obama. Però oggi l'ha ridetta, tant'è che il Presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker ha detto: non sono un fanatico dell'austerità cieca, però la Commissione è un facile capro espiatorio, ma non è l'Europa responsabile dell'alto debito pubblico belga, stava rispondendo a una domanda del Belgio. Il Belgio fa piuttosto bene, ma ha il livello di indebitamento più alto dopo Grecia e Italia, quindi bisognerà vigilare. Non vedo nessuna preoccupazione perché il governo belga è apertamente pro-europeo. Non sono un fanatico dell'austerità, un tipo che applica politiche di bilancio alla cieca. Non ho mai pensato ad una flessibilità senza ragione. Sono stato nel mio paese ministro del lavoro e so quindi cosa pensano i lavoratori e quale risposta non bisogna formulare al loro indirizzo. Sì, non ho capito se questo governo belga, che è apertamente pro-europeo e non avrà quindi nessuna preoccupazione, sia anche un parlare a nuora, perché suocera intende, nei confronti di Renzi e dell'Italia. Comunque, ancora per quello che riguarda la manovra italiana e le manovre dei vari paesi, oggi si è saputo dal portavoce della Commissione Europea Margrethe Schinas che la decisione sulle manovre di bilancio 2017 non è ancora stata presa, sarà presa domani durante il Collegio dei Commissari. E poi l'Italia, per voce del sottosegretario Sandro Gozzi, a margine del Consiglio degli Affari Regionali a Bruxelles, ha confermato la riserva, ossia ha posto il veto alla proposta di compromesso fatta dalla presidenza slovacca per la revisione del midterm del bilancio pluriennale dell'Unione Europea. Che cosa, insomma, l'Italia pone il veto perché non considera accettabile che manchino ancora delle garanzie per l'aumento di risorse a favore delle nostre priorità, e quindi immigrazione, sicurezza, disoccupazione giovanile o programmi per la ricerca. È interessante la notizia che si è presa oggi da fonti di Bruxelles. Si stima che sia circa di 1 miliardo l'anno la spesa di Mosca per i cosiddetti troll, cioè seminatori di propaganda sul web con l'obiettivo di influenzare la politica negli stati membri dell'Unione Europea, con un obiettivo anti Unione Europea. E tra l'altro la task force dell'Unione Europea ha adesso anche un suo profilo su Twitter per sfatare la mitologia negativa all'Unione Europea e contrastare appunto i troll. Nel frattempo, parlando di cose un po' più concrete, è uscito anche il dato sul PIL dell'Unione Europea 19, crescita stabile, più 0,3 nel terzo trimestre, più 0,4 l'Unione Europea a 28. Questo nel giorno in cui ovviamente è uscito anche il nostro PIL, più 0,3%. Ne parleremo fra un attimo, ma su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, oggi a firma del vice direttore del Sole 24 Ore, Alberto Orioli. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. La crescita sta arrivando, dice con entusiasmo il ministro Padoan, e lo dice come lo direbbe il velista che aspetta il vento quando è in regata. In effetti il PIL del terzo trimestre ha segnato un più 0,3%, un buon rimbalzo rispetto allo zero del trimestre precedente, che ha portato la performance italiana in linea quindi con la media della crescita dell'Eurozona. La proiezione annuale di questo dato porta la crescita allo 0,9%, in linea con le previsioni fornite dall'Italia all'Europa per avere il sofferto via libera alla legge di bilancio che Bruxelles la proverà con molti distinguo e qualche reprimenda domani. Cresce l'industria, riprova che l'Italia deve puntare, e in modo sempre più massiccio, sulla sua manifattura. È importante anche il fatto che sia in ripresa la domanda interna, segno che l'Italia, da anni sopravvissuta grazie all'export, forse sta cambiando pelle. E sarebbe davvero un dato positivo, perché la ripartenza dei consumi interni è il primo vero mattone per costruire una ripresa che sia stabile e duratura. A contrastare questa tendenza, purtroppo, c'è l'ultimo dato sull'inflazione di ottobre, che ha segnato in realtà un ritorno dell'Italia nel cono d'ombra della deflazione, e ciò significa ancora sfiducia e rallentamento proprio dei consumi. Questi dati dovranno allinearsi perché si possa parlare davvero di un rilancio dell'economia su cui fare affidamento per il futuro. Per ora godiamoci il dato del terzo trimestre, sapendo che diventa decisivo quello del quarto, che registra tra l'altro i consumi di Natale. La grande distribuzione per adesso è pessimista e tende a smorzare gli entusiasmi. Per ora conviene solo sperare che sia più un fatto scaramantico che altro. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, beh, era immaginabile che, adesso non torno sui temi, perché l'ho già detto quando è esploso Bubbone, mi riferisco al Sole 24 Ore, non voglio di distinguere tra gestione manageriale e qualità del prodotto, comunque non la pensi. Rispondo solo a chi mi dice, ma adesso però fare chiarezza sui soldi bruciati della quotazione. Guardi, la Confindustria ieri ha detto che valuterà le azioni di responsabilità. C'è una procura che indaga, insomma, cosa volete di più? E anche la Consob, aspettiamo, come sempre aspettiamo. Ecco, dovete che sia contento, che siamo contenti qua dentro. No. Vabbè, andiamo avanti. Allora, il PIL italiano, l'avete già capito dal 100 secondi che vengono trasmessi anche su Radio Dimensione Suono, su RDS, rimbalzo nel terzo trimestre 2016 dopo un dato deludente, lo ricordo, nel secondo trimestre, più 0,3%, il PIL acquisito, quello che ormai abbiamo messo in cascina, fosse anche zero la variazione nel quarto trimestre, è dello 0,8% come crescita. Segnali di miglioramento vengono fotografati anche dal CERVED, quindi prima di scrivermi che sono figlio renziano, pigliatela col CERVED. E infatti vi do anche la possibilità di pigliarvela col CERVED, perché saluto il direttore del Business Development del CERVED e uno dei curatori del rapporto, Valerio Momoni. Buonasera, dottore. Buonasera. E grazie anche al professor Francesco Daveri, che avevo interrotto la settimana scorsa e volevo riprenderlo. Economista, insegnante all'Università Cattolica di Piacenza. Buonasera, Daveri. Buonasera. Allora, prima partire da lei, Daveri, poi andiamo invece al dato sulle piccole e medie imprese, che sono quelle che studia il CERVED. 0,3%, con che prospettive, secondo lei, Daveri, sul quarto trimestre a questo punto? Naturalmente la sfera di cristallo non ce l'ha nessuno, e per ora i dati su ottobre e novembre sono ancora molto scarsi. L'importante è che ci sia stata una inversione di tendenza rispetto al piattume del secondo trimestre, questo va registrato, però da considerare che i dati estivi, soprattutto quelli di agosto, sono sempre dei dati che vanno presi un po' con beneficio di inventario, quindi secondo me la cautela della grande distribuzione, la cautela di tutti in vista di quello che succederà nei prossimi mesi è molto auspicabile, soprattutto in considerazione del fatto che il rischio è che sia imprese che famiglie si mettano ad aspettare il risultato del referendum, ecco, per fare acquisti di beni durevoli, per prendere decisioni di investimento e cose simili. E queste cose contano molto sulla congiuntura. Quindi la cautela, credo, per il dato del quarto trimestre, penso che sia d'obbligo. Sì, in questo rispondo anche alcuni ascoltatori che dicevano: ma come, ieri con il centro studi di Confcommercio dicevate il contrario? No, ieri il centro studi di Confcommercio ha fatto notare che si parlava della deflazione, che la deflazione ad ottobre, ed è, immagino, un dato a cui faceva riferimento anche lei, Daveri, segnala un rallentamento dei prezzi, un calo dei prezzi nei generi alimentari, lavorati e non lavorati, quindi ne abbiamo dedotto in maniera abbastanza banale che fosse un problema anche di consumi interni, cioè che i consumi interni non stiano dando quella tensione sui prezzi tale almeno da annullare la deflazione. Che cosa ha contraddistinto l'andamento del nostro PIL? A parte che vi do i primi due trimestri, più la stima precedente del PIL acquisito basata sui primi due trimestri era dello 0,6, adesso siamo andati allo 0,8, ricordo che il secondo era a 0. Daveri, come si tiene assieme un PIL che cresce nel terzo trimestre dello 0,3, spinto da industria e servizi e un po' anche dalla domanda nazionale, lo specifica l'Istat, mentre ha pesato negativamente la componente estera, quindi l'export, con quanto commentavamo ieri sulla deflazione ad ottobre? Dunque, la deflazione di ottobre in realtà fa riferimento per l'appunto al primo dato per il quarto trimestre, quindi non è detto che quello che è successo nel terzo trimestre vada d'accordo con quello che succederà nel quarto. Nel terzo trimestre l'andamento dell'inflazione aveva cominciato a essere nella direzione sensata, ovvero sia i consumi magari si riprendono un po', la domanda interna si riprende un po', viene meno l'andamento fortemente negativo del prezzo del petrolio e delle materie prime, che ricordiamolo è il dato che ha pesato di più sull'inflazione ancora prima della crisi, ancora prima della mancanza dei consumi, e quindi un certo ritorno dell'inflazione io me l'aspetto per i prossimi mesi. Insomma, bisogna anche fare qualche previsione, anche se non sono d'accordo, anche se non vanno d'accordo con i primi dati di ottobre, però sarei molto stupito che continuasse questo andamento all'ingiù dei prezzi, sia perché mi sembra che il reddito disponibile si sia consolidato nel corso del tempo, quindi un certo ritorno dei consumi dovrebbe proseguire, sia pure sempre decimale, e dall'altro lato non c'è più l'andamento negativo del prezzo del petrolio, pian piano arriverà sull'inflazione, al consumo, e già è arrivata nei prezzi alla produzione il ritorno in su del prezzo del petrolio, quindi io credo che ritornerà l'inflazione e quindi speriamo che questo sia associato a un andamento dei consumi che sia stabile col segno più. Allora, so che in rete sta circolando l'ipotesi che l'Istat ha taroccato i dati per fare un favore al governo verso il referendum. Io invito tutti intanto lo dico a chi scrive: non parlerò mai neanche sotto tortura di effetti positivi o negativi in base al voto referendario. Ieri abbiamo commentato un andamento dello spread che si muoveva per motivi politici interni italiani, incertezza politica, quella la si può dire, ma si muoveva soprattutto per variabili esterne, cioè aumentavano i rendimenti dei bund, anzi dei T-bond americani, dei bund e quant'altro. Poi il nostro spread rispetto alla Spagna si era mosso già da settimane e lo abbiamo più alto rispetto a quello spagnolo. Ma così come non dirò una cosa sul referendum sì o no a impatto economico, mi sembra anche una fesseria totale dire che l'Istat va a taroccare i dati sul terzo trimestre. Allora perché non ha taroccato anche quelli sul secondo trimestre? Dai, stiamo tutti tranquilli, il referendum è costituzionale, si vota sulla riforma della Costituzione, lasciate fuori l'economia, lo dico ogni giorno, per favore. Il Premier Renzi ha commentato, con le riforme sale il PIL, senza riforme sale lo spread, avanti tutta, e vabbè, è lui che lo fa, e lui è in campagna politica elettorale sul referendum, e tant'è. E poi sul PIL italiano non soddisfa, ma meglio di Francia e Germania che sono cresciuti lo 0,2%. Comunque, vorrei sentire su questo anche Momoni, poi passiamo al rapporto Cerved, sulle sue previsioni sia sul PIL che sulla deflazione. Allora, noi, buonasera, noi in realtà leggiamo tutto attraverso la piccola e media impresa. Certo. Sul PIL, quello che ci aspettiamo, in realtà che abbiamo stimolato nei prossimi anni è una crescita che rimane sempre intorno dell'1%, quindi 0,8, 0,9 quest'anno, 0,9 poi più 1% nel 2018, ma secondo me una riflessione importante sul PIL va fatta in termini relativi. Rimane una distanza di 6-7 punti percentuali a questa velocità rispetto a quello di 10 anni fa, 11 anni fa. Quindi quando si va a discutere su un'accelerazione, è un'accelerazione che poi le dirò qualche dato anche sulla piccola e media impresa, che in realtà rappresenta anche un po' la spina dorsale. La distanza tra i dati economici di 10 anni fa e oggi è ancora a fortissimo sfavore di quelli di oggi, quindi in realtà noi ci aspettiamo che se non c'è un'accelerazione diversa, se si tratta sempre di ragionare sul più 1%, ci vorranno ancora diversi anni prima che si possa parlare di recupero. Ormai l'abbiamo spostata al 2022, se non ricordo male, il recupero del livello di impresa del 2007. Esatto. Allora, adesso andiamo sul metro, pubblicità, e poi vorrei capire altre cose, intanto sul rapporto Cerved e poi con Daveri, anche su altre dinamiche esterne. Io devo dire a un ascoltatore, onestamente, guardi che lei ha capito male, la polemica dei troll che pagati dalla Russia la sta facendo Bruxelles, non il sottoscritto, che ha stimato in 1 miliardo i soldi russi per alimentare troll sulla rete anti-Unione Europea. Quindi lasci stare la libertà d'espressione, abbiamo anche data la notizia. Faccia anche pace con se stesso. Meteo. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Focus Economia. I wanna be free, set free. :17:40 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Ripeto, non è che se il PIL fosse andato meno 0,2 avremmo potuto commentare, ecco questa l'Istat che gioca a favore del no. È inutile commentare che siccome il PIL fa 0+0,3 è un Istat che tarocca i dati a favore del sì. Tanto non vi preoccupate, con uno 0,3 e uno 0,8 su base annua, non è che stiamo a festeggiare a champagne e aragoste. Stiamo sotto, l'ho detto anche Renzi oggi, un livello che uno può definire accettabile, sempre sotto l'1%, e come ricordava prima anche Daveri, ci vorranno anni per arrivare a recuperare i livelli del 2007-2008. Però piantiamola di buttare tutto in politica. Io capisco questa campagna del referendum è devastante sul fronte di come sta spaccando il paese, poi un giorno faremo anche un ragionamento su questo, però buttare anche sul referendum il dato dell'Istat sul PIL veramente non ce la faccio, dai. Allora, Momoni, che cosa fotografa il Cerved nel suo rapporto annuale, quello di quest'anno, sulle piccole e medie imprese? Ma quello che fotografiamo è che il cambio di direzione in realtà c'è stato. Quindi, lo sintetizzo così perché sono diversi elementi. Primo, per il primo anno, dopo 5 anni di emorragia continua, il numero di piccole e medie imprese è cresciuto. Quindi, e questo è frutto di risultato di fallimenti e liquidazioni volontarie che sono tornati ai livelli del 2007 e diciamo una ritrovata fiducia degli imprenditori che hanno ricominciato ad aprire nuove imprese. Quindi questo è un primo dato che per noi non è che lascia molto dubbi al fatto che almeno il fondo sembra essere stato toccato. Il secondo, che anche dal punto di vista del bilancio e quindi dei conti economici, c'è una ripartenza del fatturato e del margine, che cresce per esempio del 4,6%, dando un po' una misura anche di quanto siano le piccole e medie imprese a trainare poi il famoso più 0,8. E quindi noi stiamo vedendo un timidissimo ritorno del credito finanziario alle imprese e un buon ritorno del credito commerciale. Quindi le imprese si stanno facendo credito, stanno ricominciando a farsi credito e stanno pagando i propri fornitori in maniera puntuale. Quindi noi, mettendo tutto insieme, ci viene da dire, ma adesso dell'anno scorso c'erano stati i primi segnali e anche non troppo omogenei, quest'anno i segnali sembrano tutti omogenei, quindi sia sulla demografia d'impresa, sia sui conti economici, sia sui rapporti di credito commerciale, ci sono segnali che vanno tutti in una direzione. Poi, come dicevo prima, un numero che mi sciocca sempre abbastanza è che comunque sia ad oggi le imprese hanno una marginalità, quindi un margine operativo lordo che è ancora del 23% più basso rispetto a quello del 2007, quindi insomma, la distanza ancora è enorme. Senta, cosa vuol dire che è Trento la Silicon Valley italiana? Ma noi siamo andati a vedere dove, allora, dove sono innanzitutto le start-up innovative che sono iscritte insomma, in quella sezione speciale del registro di imprese, più siamo andati a scovarne di altre analizzando i siti web. Avendo mappato un totale di 16.000 tra start-up e PMI che sono definite innovative, la provincia che ha un rapporto di innovazione rispetto al totale di gran lunga più alto di tutte le altre province italiane è Trento. Quindi poi seguono Trieste, Ancona, buona anche Torino, però Trento effettivamente è abbastanza noi l'abbiamo chiamata Silicon Valley perché in termini assoluti non ne ha molti, ma in termini relativi è molto energetica da quel punto di vista. Allora, su questo vedo ancora molti messaggi, voglio arrivare anche a Daveri, la borsa oggi dovrete, insomma, la faremo in maniera diversa perché appunto i colleghi di Radio Corso 24 ore sono in sciopero. IGR di Radio 24 ogni punto ora ricordano il motivo dello sciopero anche dei giornalisti di Radio 24, per cui su questo e non posso ribadire ogni 10 minuti la mia solidarietà e soprattutto il mantenere la differenza tra il prodotto giornalistico Sole 24 ore Radio, Radio Core e Quotidiano rispetto alla valutazione sulla gestione manageriale, quantomeno negativa. Però possiamo andare avanti? No, perché non vorrei fare tutta la puntata così. Allora, da questo punto di vista, Daveri, insomma, il nervosismo, io vengo a un punto, il nervosismo con cui vengono accolti anche questi dati, non è bello. Allora, la partigianeria politica c'è sempre stata, c'era i tempi di Berlusconi, c'era i tempi di Prodi, ci mancherebbe, siamo uomini di mondo, lo sappiamo che quando Berlusconi diceva che tutto andava bene, c'era la parte che diceva, ecco, vedi che fa propaganda politica, quando Prodi diceva che bisogna aprirsi ai mercati, la controparte politica lo attaccava dicendo vuoi svendere l'Italia. Qui però mi sembra che stiamo legando tutto, diciamo, a una data referendaria, mentre personalmente, per esempio, le riforme sono importanti per l'economia, questo l'abbiamo sempre detto, a me sta più a cuore quella della pubblica amministrazione, se devo proprio essere chiaro, i decreti attuativi, la riforma Madia, i dirigenti che possono essere mandati via e aggiungerei anche la riforma delle municipalizzate. Però lei come economista, il tema di quanto ormai diciamo si siano avvelenati i pozzi per ritenere che l'Istat può andare a taroccare i dati in vista del referendum, se lo pone o no? Ma sì, me l'ero anche posto in passato, ma poi sono arrivato alla conclusione che in definitiva esistono delle procedure che sono fissate da Eurostat, che sono fissate da dei libroni a cui anche l'Istat giustamente non solo si attiene, ma contribuisce anche a scrivere questi libroni che prescrivono come si devono contabilizzare le varie voci della contabilità nazionale e le cose che fanno il PIL. Quindi andare a pensare che l'Istat possa mettersi lì a fare un più 0,1 o 0,1 in più o in meno a seconda delle preferenze politiche, delle simpatie, del momento, insomma francamente è fuorviante e tra parentesi è fuori luogo, ma dall'altro lato contribuisce a indebolire anche la residua fiducia che possiamo avere nei dati come uno strumento per la discussione, perché se a quel punto se anche i dati diventano forniti dall'Istituto Centrale di Statistica diventassero fonte di dati partigiani, cioè che contano in un modo e contano nell'altro, sono prodotti in modo diverso, questo sarebbe effettivamente un ulteriore passo verso il baratro. Ecco, non credo che sia questo, è legittimo che le parti politiche e i politici si dividano magari mettendo in luce la parte del dato che piace più all'uno piuttosto che più all'altro, ma questo non deve portarci a concludere che i dati hanno colore politico, ecco, quando sono prodotti, questo non è il caso, non mi sembra che sia il caso. Allora, restate con me ancora un minuto, il traffico e la pubblicità e poi vado alla parte conclusiva. Vabbè, tanto la battuta la immaginavo, la classifica parlerà anche la classifica nostra è solo sullo spreco di denaro pubblico, partecipate, enti locali, Stato, Regioni, Province, non ci occupiamo della gestione dei privati anche del Sole 24 Ore, per cui non c'è mai stato un privato in classifica. I privati possono fare aumentare il valore o distruggere valore, come abbiamo raccontato moltissime volte. Faccio un esempio: non abbiamo mai messo in classifica quello che è successo alle banche, ne abbiamo parlato, ma non nella classifica. La classifica sullo spreco di denaro pubblico è tale, resterà traffico. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta Focus Economia. minuti. Allora, la classifica del PIL. C'è un ascoltatore che si è incistato su questo. Allora, se prendiamo la variazione del terzo trimestre più 0,3%, ha ragione in Premier Renzi che è meglio di Francia e di Germania. La Francia fa 0,2 e anche la Germania. Se prendiamo il PIL rispetto all'anno precedente più 0,9, quindi non rispetto al trimestre precedente, ma rispetto a un anno fa, al terzo trimestre del 2015, il nostro 0,9 è basso in classifica, perché la Francia fa 1,1, la Spagna 3,2, la Grecia 1,5, la Germania 1,7. Ma questo è, diciamo, il modo in cui prendi il raffronto. Quando ti fa comodo lo prendi congiunturale, quando non ti fa comodo lo prendi tendenziale. Una cosa voglio dirla però, da questo punto di vista, che aspettiamo l'ultimo dato dell'anno e vorrei chiedere invece al CERVED, nella persona appunto di chi ha curato la ricerca, Momoni, che cosa manca però alle piccole e medie imprese italiane per aumentare questo risveglio che voi notate. Infine, se qualcuno pensa che l'italiano vada a votare sì o no sulla base del PIL allo 0,3, secondo me si fa una pia illusione. Uno vota sì o no, diciamo, dà un apprezzamento al governo o non al governo, ammesso che sia questo, sulla base della situazione economica che vede realmente. Io potrei dirgli anche 0,8, ma se tu non la vedi te ne freghi. Potrei dirti anche 0,1, ma se noti un miglioramento del clima economico, prendi atto del miglioramento del clima economico, non dello 0,1%. Comunque, Momoni, cosa manca alle imprese che ancora non si stanno muovendo, piccole e medie imprese? Allora, io direi che manca, dico, un fattore di breve e un fattore invece di più strutturale. Nel breve manca sicuramente ancora più spinta creditizia e una ripresa della domanda interna, perché è ancora debolissima, quindi il contesto è ancora molto molto rischioso. Io dal punto di vista invece più strutturale risponderei che quello che manca è che manca da ormai decenni, però è il colmare il gap di produttività. Perché se dalla metà degli anni 90 in poi la Germania ha migliorato la propria produttività e così molti dei paesi europei, l'Italia invece non è riuscita a migliorarla. Le do un numero che forse fa anche riflettere un pochino più vicino. Noi siamo andati a vedere quanto sono cresciute le aziende che hanno innovato di più, quindi le aziende innovative, e che hanno effettivamente nei numeri una produttività molto più alta delle altre. E queste aziende tra il 2009 e il 2015 sono cresciute del 28% in media. Tutte le altre sono cresciute del 4,5%. Questo significa cosa? Che invece di stare appunto a discutere dello 0, quello che dovrebbe fare o dovremmo fare o dovrebbe essere dato alle aziende è un contesto di innovazione che le aiuti a colmare il gap di produttività che hanno sia rispetto alle altre europee sia rispetto a paesi diversi da quelli europei. Quindi è questo quello che manca alle aziende europee, alle aziende italiane. Chiaramente aver stretto il credito e non aver creato ancora alternative valide limita sicuramente quanto possono esprimere in termini di crescita. Però ormai ce ne sono di buone, ecco. Quelle deboli sono uscite. Un'ultima, sì, ahimè, insomma, la pulizia in molti casi è già stata fatta con morti e feriti. Allora, l'ultima domanda per Daveri, perché poi vorrei passare al caso Monte dei Paschi oggi in borsa. È la seguente: quali, me lo chiedono gli ascoltatori, giro volentieri la domanda. Allora, quali riforme lei potesse scegliere? Guardate, la riforma più impellente per arrivare a un miglioramento più sensibile e più significativo della nostra economia è? Ma allora, il primo è non promettere che le riforme le consegneranno un risultato l'anno prossimo. Cioè, purtroppo non è così. Le riforme che contano di più credo che siano quelle del funzionamento dello Stato, quindi sono d'accordo con quello che diceva, pubblica amministrazione, partecipate, anche per dare un segno che i sacrifici, le cose da fare cominciano dal lato pubblico e così almeno poi anche sul privato ci si mette a fare le cose che si deve, insomma. Quindi questo secondo me sarebbe una cosa importante. Non sarà questo in realtà che farà crescere il PIL dell'Italia del 2% improvvisamente dal 2017, però senza queste diventa difficile pensare a una crescita sostenuta della produttività e di queste cose tra 5 anni, insomma. Questa è la cosa a cui dobbiamo lavorare, questa è la direzione in cui si deve andare. E secondo lei perché la riforma della pubblica amministrazione è passata in secondo piano? Ma le riforme vanno piano perché ci sono interessi costituiti che le difendono, insomma, e quindi ci sono forse delle resistenze e forse c'è anche un po' di ricatto dall'interno dell'apparato, perché se si mandano a casa i mandarini o se si rendono più deboli i mandarini, la minaccia dei mandarini, che sono gli attuali dirigenti praticamente inamovibili, è quella di dire: ma allora vi rallento il processo, il modo in cui il processo legislativo E sulle partecipate, una battuta da veri, perché? Ma sulle partecipate anche lì ci sono tanti interessi costituiti, le tanti voti, ancora più a livello micro, direi, e quindi lì è ancora più evidente perché le cose si fermano, mentre nel caso della pubblica amministrazione, della dirigenza, sono forse resistenze più localizzate in chi adesso ha le leve in mano e che può minacciare di far deragliare, insomma, le cose nel caso in cui si facciano i passi sbagliati. Poi ci sono alcune decisioni da prendere che non sono poi ovvie, cioè andare tutto per concorso oppure assumere dirigenti esterni, insomma, qual è il giusto mix? Non è una decisione facile da prendere, però certamente bisognerebbe andare avanti. Allora, grazie a Valerio Momoni del CERVE e a Francesco Daveri. Dopo il GR24, che non c'è, c'è il comunicato sindacale, quindi potete ascoltare il comunicato sindacale e abbiamo uno stacco brevissimo. Parleremo del caso Monte dei Paschi, meno 10% dopo l'annuncio di ieri dell'operazione di riacquisto 4 miliardi e 300 milioni di euro di obbligazioni. Perché il titolo cala così tanto? Oggi è il peggiore tra quelli a maggiore capitalizzazione, devo dire che il peggiore in assoluto si chiama Trevi. Bene invece oggi Saipem più 4,40%. E allora ci fermiamo per la pubblicità. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Sono le 18. Questo giornale radio non va in onda per lo sciopero indetto dai giornalisti di Radio 24. Finestre informative alle 8, alle 13 e alle 19. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Focus Economia. :18:04 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, arriviamo alla borsa. Lo sciopero non solo dei giornalisti di Radio 24, ma anche dei colleghi di Radio Core prevede che la borsa ve la devo fare io e vi dovrete accontentare anche di questo. Ma il caso di oggi si chiama soprattutto Monte dei Paschi di Siena. Allora andiamo con la borsa in primo luogo, che vede in recupero oggi gli energetici, più 4,40 Saipem, più 2% Eni e Snam più 1,90, molto erano calati in questi giorni, Terna più 1,30, mettiamoci anche Tenaris che è legata al comparto del petrolio, più 1,20%, bene anche Campari più 2,30 e ancora Buzzi Unice in più 1,80, Telecom più 1,60, CNH più 1,5 e ST Microelectronics più 1,30. Invece il fronte dei cali al di là del Monte dei Paschi vede calare Ferragamo del 6,40, UbiBanca del 4,90, Unicredit del 4,11, Intesa del 2,20, Banco Popolare del 2%, Pop Milano dell'1,80, Unipol dell'1,50 percento, come Italgas. Banca Mediolanum -1,30, euro su dollaro quota 1,07, debolezza per tutte le banche oggi, ma il caso si chiama Monte dei Paschi, meno 10%. Certo, c'è anche Unicredit, le voci di ieri su Società Generale, ma qui siamo più alle cose concrete con Monte dei Paschi. Perché? Perché ieri è stata lanciata un'offerta pubblica di acquisto su 11 obbligazioni subordinate dal valore complessivo di 4 miliardi e 300 milioni. E da questo punto di vista, con l'obbligo per chi aderirà di reinvestire il corrispettivo incassato nell'aumento di capitale da 5 miliardi. E oggi il Monte dei Paschi dice: se la conversione non dovesse avvenire, dare un esito soddisfacente, le banche che sono messe lì a garantire l'eventuale inoptato, cioè la parte che non dovesse essere sottoscritta, potrebbero anche mollare l'operazione. Marco Ferrando del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. E chiarisco, prima di evitare equivoci, che i giornalisti del Sole 24 Ore, inteso come quotidiano, hanno scioperato ieri, perché il quotidiano oggi non era in edicola, e oggi sono al lavoro perché il quotidiano va in edicola domani. Marco, come mai un calo così forte? Ma essenzialmente per due ragioni, direi. La prima è quella che accennavi tu, nel senso che la notizia contenuta di fatto dei prezzi di conversione, dell'ammontare di conversione, è quella di un'operazione estremamente delicata, dall'esito assolutamente incerto. Quindi evidentemente il mercato continua a percepire un elevatissimo rischio sull'operazione e quindi vende azioni. Il secondo motivo è che il prezzo a cui è stata impostata la conversione dei bond è un prezzo molto vantaggioso, sempre che la conversione vada in porto. Pertanto è verosimile che alcuni investitori, alcuni fondi speculativi si siano mossi fuori dalle azioni sulle obbligazioni. E cosa vuol dire però l'obbligo, perché me lo stanno scrivendo, cioè tu sottoscrivi, porti le tue obbligazioni, te le fai comprare dal Monte, ma i soldi che ottieni devi tutti reinvestire nel capitale, cioè le porti in sostanza in aumento di capitale. Sì, è così, perché formalmente si tratta di una specie di riacquisto, di buyback, per cui la banca ti ricompra le obbligazioni che non erano in scadenza, non erano convertibili in questa misura, ma ti obbliga a spendere quello che ti versa per la sottoscrizione di azioni. Quindi di fatto uno non può vendere le obbligazioni, tenersi soldi e non riacquistare azioni. Di fatto è una conversione, diciamo, indotta, straordinaria, e il prezzo ne dimostra la straordinarietà, perché è un prezzo a forte sconto. Ma scusa, rispetto... Marco, io avevo capito però che sulla vicenda Monte dei Paschi e anche Unicredit, anche in questo caso, così riprendiamo un tema della prima ora, tutto sarebbe venuto dopo il 4, dopo sta data spartiacque, a mio avviso in maniera sbagliata, ma ormai resta da solo a dirlo. Mi sembra che però, altro che il 4, qui si stiano muovendo ben prima del 4. Ma sì, è così. Diciamo che il 4 rispetto all'operazione Monte Paschi casca esattamente a metà, nel senso che il Monte ha un'assemblea la settimana prossima, il 24, peraltro un passaggio non scontato, perché serve il 20% del quorum per rendere valida l'assemblea straordinaria, e visto un azionariato assolutamente fluido non è scontato. Comunque dopo il 24, e nel comunicato pubblicato ieri si dice, dopo il 24, verosimilmente la settimana dopo, partirà la conversione dei bond, arriverà il referendum, quindi il weekend successivo siamo al 4, e quindi nella settimana seguente dovrebbe partire l'aumento di capitale. E qui ricordiamo che tra le clausole poste dal consorzio di garanzia proprio sulla garanzia ci sono condizioni di mercato accettabili, e sicuramente il referendum rappresenta uno di quegli elementi che possono turbare fortemente il mercato, e qui c'è un altro elemento di incertezza. Unicredit, visto che me lo chiedono gli ascoltatori, chiudiamo su questo. Allora, qui siamo veramente al pourparler, ai gossip, ai rumors, come dicono quelli che hanno studiato l'inglese, ma in realtà sottolinea però una cosa, cioè torna a essere sempre molto di attualità, al di là che sia Société Générale o no, da dove viene Moustier, non ne frega nulla in questo momento, però il fatto che il mercato creda che Unicredit non potrà restare da solo, che sarebbe... o meglio, che l'aumento di capitale da 9 miliardi dicono alcuni, da 12 dicono gli altri, facciamo 10 così ci capiamo, potrebbe essere talmente impegnativo da poter spingere la banca Unicredit a guardarsi ulteriormente attorno. Sì, la voce di Sogen effettivamente girava da qualche giorno, anche noi l'avevamo registrata, almeno fidatevi, è così. In realtà... bisogna anche dire che ai multipli attuali di Unicredit, che quota 13 miliardi circa, capitalizza 13 miliardi in borsa, renderebbero ad oggi, quindi prima dell'aumento, prima delle pulizie che Moustier ha annunciato, estremamente difficile per Unicredit. Cioè vorrebbe dire di fatto essere comprata. Cioè Sogen quota 4 volte Unicredit. Quindi non è escluso che nel futuro di Unicredit, così come di altre banche, ci possa essere un'operazione straordinaria, un M&A, ma ad oggi a questi numeri sarebbe veramente molto penalizzante per la banca. Quindi a buon senso bisogna aspettare ancora un po'. Allora, gli indici: invariata Milano, più 0,60 Parigi, più 0,40 Francoforte, più 0,60 Londra, meno 0,13 il Dow Jones. Migliori e peggiori: Media Contact più 12, Neurosoft più 11, Poligrafici più 8,70, IMA più 6,90, Leone Film Group più 6,20, Hilderberg Cement più 5,80, Fronte Opposto, Monte dei Paschi, abbiamo detto, Brioschi meno 9,50, Ratti meno 7,60, Biancamano meno 7,20%. Grazie a Marco Ferrando, scusate, grazie a Marco Ferrando e buon lavoro ai colleghi del Sole 24 Ore che oggi appunto lavorano quelli del quotidiano. E noi invece cambiamo tema, ossia ci occupiamo dell'inizio della visita di Barack Obama in Europa, parte da Atene, ma anche di nuovo delle risposte, botta e risposta con Bruxelles, e diciamo della prima vittima, mentre Trump sta creando un po' di difficoltà alla squadra di governo, come si dice in questo caso, la squadra della Casa Bianca, anche della prima vittima della nuova amministrazione Trump. Ho portato il mio messaggio al resto dell'Europa. L'austerità da sola non può portare alla prosperità. Sarà importante rispettare l'alleggerimento del debito e le altre strategie per aiutare i greci in questo periodo. Questa è la frase che tutti hanno ripreso di Obama appena arrivato a Atene: l'austerità non può portare alla crescita economica. E poi gli aiutino i creditori, la Grecia che è sulla strada della ripresa, sorpreso dall'esito del voto su Trump, ma non mi sento responsabile, qua nessuno è mai responsabile. E devo dire che sull'austerità poi ha risposto oggi anche Juncker. Però dicevo che l'amministrazione Trump ha già fatto una prima vittima, è stato espulso e non potrà più votare negli Stati Uniti, diciamo, il filo clintoniano Mario Platero, che infatti è qua davanti a me, perché non ha, forse gli hanno levato anche la green card, non so cosa tu avessi negli Stati Uniti. Buonasera al corrispondente Sole 24 Ore. Buonasera Sebastiano. Buonasera Sebastiano. Vabbè, sono a Milano, in effetti, però devo dire, non solo non leggi il Sole 24 Ore, non senti neanche la radio. No, non faccio niente. La guarda, tua radio. Penso solo a te. Ma infatti, ma mi sembra. Penso solo a te. Sebastiano, perché proprio oggi... Hai condotto da questi studi? No, non da questi studi. Prima, voglio dire, sono arrivato oggi pomeriggio, ma la puntata l'ho mandata in onda prima e abbiamo fatto la puntata in cui abbiamo parlato di Donald. Donald. Adesso è il tuo miglior amico, scommetto. È uno dei miei best friend, chiaramente, come è sempre stato, insomma, matrimonio. Però l'obiettività giornalistica mi spinge a dare... come dire, allora, l'interpretazione giusta dei fatti, delle cose, eccetera. Allora venendo e cercando di essere seri, nel senso, perché sapete, per chi non lo sapesse, che lo sfottò è iniziato durante la lunga notte elettorale, quando Mario Pratero, giustamente, come molti di noi, molti commentatori americani, era convinto che avrebbe vinto la Clinton. Non c'è niente di strano in questo. La musata e l'inesattezza sulle proiezioni abbiamo visto tutti, commentato tutti. Andiamo invece sulla parte seria. La squadra di Trump, perché poi voglio arrivare ai rapporti con l'Unione Europea. Mi sembra che ci siano un po' di bocche storte e mal di pancia sulla figura di Rudolph Giuliani come segretario di Stato, che ricordiamolo è una carica chiave nella Casa Bianca assieme al segretario del Tesoro, e invece ancora i nomi sul ministro dell'economia, appunto il segretario del Tesoro, restino o oscillino tra Jamie Dimon di JP Morgan, l'ex Goldman Sachs Steve Mnuchin, e che non riuscirò mai a pronunciare, quindi spero che non sia lui solo per un motivo radiofonico. Mnuchin. E il finanziere Carl Icahn. Da dove nascono queste, diciamo, incertezze? Questi nomi e questi mal di pancia. Allora, cominciamo da Giuliani. Giuliani è stato al fianco di Donald Trump nel momento più difficile, quando Donald Trump è stato abbandonato da tutti, incluso il governatore del New Jersey Chris Christie, che pure è molto molto vicino a lui, subito dopo l'uscita del video scandalo, il video che raccontava di questo suo linguaggio poco carino nei confronti delle donne. Ecco, Giuliani è andato dappertutto, è andato in televisione, lo ha difeso, ha detto che assolutamente non si poteva considerare questa cosa come una cosa negativa per Trump. E dunque Giuliani è stato un grosso appoggio, non soltanto concreto ma anche morale in un momento difficile. E dunque merita qualche cosa. Si era parlato della giustizia, ma sarebbe un buon segretario al Tesoro? Forse. Certamente può farlo, certamente ha i numeri, certamente sarebbe segretario meglio di John Bolton, dice. Segretario di Stato. Sì, certo. No, scusa, segretario di Stato, sì, cioè segretario alla giustizia o segretario di Stato, no, al Tesoro ci sono, come dicevamo, altri nomi. Per cui può farlo, secondo me è all'altezza di farlo. Qualcuno è preoccupato perché è molto aggressivo, è di destra, ha delle posizioni nei confronti dell'Iran, nei confronti dei palestinesi, eccetera, che non sono condivise da molti in Europa. Allora, saluto e ringrazio invece Adriana Ceretelli, che non ha mai fatto nessun endorsement né a Juncker né, ed è la nostra mitica. Adriana, buonasera, editorialista del Sole 24 Ore da Bruxelles. Stiamo cercando di salvare, di ridare una nuova veste più trampiana a Mario Pratero, che non lo vedete, ma si è già tinto i capelli di giallo canarino. Allora, Adriana, qual è il termometro dei rapporti tra la Commissione a questo punto e Trump? Perché dopo quella frase, a mio avviso, un po' infelice di Juncker, abbiamo visto che oggi di nuovo Juncker è tornato sul tema del rapporto con gli Stati Uniti. In realtà rispondevano in qualche modo anche a Obama, detto: non sono un fanatico dell'austerità cieca, è facile prendersi con l'Europa come capro espiatorio, ma i problemi sono dei debiti dei singoli paesi. E poi, se vuoi fare anche un commento sul fronte politico italiano, noi stiamo mettendo il veto alla revisione di bilancio dell'Unione Europea, però prima i rapporti Bruxelles-Washington, Washington di Trump. Mi sembra che siamo partiti subito in salita, no? Io direi che però che non è tanto quello che dice la Commissione nei rapporti con gli Stati Uniti che conta, ma è quello che dicono i governi. E sotto questo aspetto certamente sono partiti in salita. Penso alla Merkel, che ha richiamato Trump sui valori fondamentali europei, quasi che fosse, non so io, Vladimir Putin o Erdogan in Turchia e non un suo alleato. Penso alla Francia, che ha avuto altri accenti molto critici, eccetera. Juncker, voglio dire, oggi è in declino dal punto di vista del suo peso specifico in Europa. È importante per noi per quanto riguarda le pagelle, eccetera, ma non ha una valenza politica decisiva. Ecco, Adriana, ma perché quindi, secondo te, questo aspetto non li darei. Perché secondo te la Merkel, che è in campagna che sta entrando nella campagna elettorale, e anche Hollande sono stati così, diciamo, così tranchant, così duri, in effetti, come tu ricordavi, qua non stiamo parlando di Putin o di Erdogan, ma stiamo parlando di un presidente democraticamente eletto con la maggioranza dei grandi elettori, con una vittoria schiacciante, non abbiamo nemmeno conteggiato le schede della Florida stavolta, perché? Perché secondo me siamo in una fase elettorale e quindi tutti, entrambi, soprattutto Hollande in Francia, ha paura di Marine Le Pen, ma anche la Merkel ha una sfida interna con... Ha una sfida interna col telefono, noi ce l'abbiamo. Allora andiamo sul traffico e poi riprendiamo la Ceretelli. Fra un minuto, 349-238-6666 per sms e WhatsApp. OneExpress.it. Il pallet network italiano che viaggia in Europa. Vi presenta Focus Economia. Allora, abbiamo ripreso Adriana Ceretelli. Nel frattempo è arrivato un flash di agenzia, manco ci stesse a sentire. Juncker che dichiara a una radio belga: Trump mi preoccupa, ha fatto una campagna disgustosa, ma non toccherà la NATO ed è necessaria per la stabilità del mondo. Della serie, appunto, abbassiamo i toni. Adriana, ti ho interrotto, o meglio sei caduta? No, sì, sono caduta. No, dicevo che sicuramente il primo fattore è che sia la Francia che la Germania hanno le elezioni in vista e hanno una forte destra, soprattutto in Francia con Marine Le Pen, ma anche in Germania con appunto l'AfD, partito anti-euro, anti-immigrati, eccetera. Quindi questo li condiziona. La seconda cosa è che erano tutti impreparati, compresi le diplomazie europee, che non avevano in nessun modo preso in considerazione l'eventualità di una vittoria di Trump, il che è, secondo me, una leggerezza che stanno pagando con delle dichiarazioni isteriche sotto certi aspetti, precipitose, premature, no? Perché tutti i candidati dicono in campagna elettorale cose che in generale non fanno quando poi vengono eletti. Ora Trump bisognerà vedere cosa farà, ma ecco, io direi che un atteggiamento più come dire, più cauto, come per esempio è stato quello della Cina, che certamente non è un sì, è vero, si sta muovendo meglio, ecco, la Cina, che doveva essere uno degli obiettivi di Trump, rispetto all'Europa, che onestamente sì, dire, a parte la NATO sì, sinistra, a parte la NATO, no? Sì, su, sì, allora, e quindi vai, vai Adriana. No, no, no, e quindi voglio dire che l'Europa si posiziona male, ma si posiziona male di fronte a Trump, ma soprattutto conferma la sua vulnerabilità, le sue debolezze, la sua inadeguatezza nella scena globale, secondo me, perché non riesce nemmeno a fare i conti con delle, come dire, dei cambiamenti che avvengono in una democrazia, anche cambiamenti, diciamo, netti, come possono avvenire in America, ma fanno parte del gioco democratico, e noi non ci eravamo minimamente preparati a questo. Allora, mi dai un commento intanto su quello che sta capitando tra l'Italia e la Commissione? Noi abbiamo bloccato con il sottosegretario Gozzi, messo il veto alla revisione di bilancio di midterm, di mezzo mandato. In realtà Renzi poco fa ha detto, devo riprendere l'agenzia, non so più, eccola qua, no, non è questa, siamo ormai ancora l'agenzia cartacea. Renzi ha detto, posto il veto dell'Unione Europea, i nostri soldi, non voglio che si usino i nostri soldi per alzare i muri e lasciare i siciliani a farsi carico dell'immigrazione, di salvare migliaia di vite, di farsi carico delle soluzioni della complessità. Cosa c'è sullo sfondo? Posso dire un commento con la mia solita franchezza? Devo dire che questa è una mossa elettorale, nel senso che la decisione sulla, diciamo, sulla revisione del bilancio pluriennale, qui non stiamo parlando dei bilanci annuali, stiamo parlando del bilancio 2013-2020, quello settennale, che appunto scadrà nel 2020 e che avrà una revisione di medio termine l'anno prossimo. Quindi sono dei discorsi molto molto prematuri, ci saranno trattative non solo tra gli Stati membri ma anche tra gli Stati membri e il Parlamento europeo. Oggi l'Italia non ha posto un veto, ha posto una riserva che fa parte della trattativa, dicendo che ci sono cose che non la soddisfano, per esempio l'Erasmus, eccetera, non ci sono fondi sufficienti, e poi questa faccenda della flessibilità dei migranti, dei muri e compagnia. Fa parte, insomma, di una trattativa che l'Italia ha con Bruxelles proprio in questo momento, cioè alla vigilia domani della famosa pagella sulla finanziaria, e fa parte di una trattativa che riguarda più in generale il rapporto dell'Italia con l'Europa, soltanto che l'impressione è che in questo momento si usi il rapporto con l'Europa anche per cercare di fare un po' di cassetta sui voti, insomma, del referendum. Io non vedo l'ora di essere al 5, comunque vada, non vedo l'ora di essere al 5, non posso più che qualunque cosa, è dall'inizio del programma, è il PIL, alcuni che si inventano che l'Istat, la taroccato, il PIL positivo di oggi per dare una mano ai voti del sì. È il Premier che dice lo spread è dovuto al referendum e sbaglia, perché è dovuto anche ai fattori esterni. Cioè qua ormai gli aumenti di capitale delle banche bloccati fino al 4. Cioè non c'è io non riesco più a fare un tema che non riguardi a questo punto il voto del referendum. Lo dico al di là di come uno voterà, e tanto il mio voto non lo saprete mai, ma al di là di come uno voterà, a mio avviso è sbagliato su un referendum costituzionale. Non si può innescare la paralisi dell'economia e sostanzialmente qualunque cosa riconducibile a quello. Detto ciò, mi tengo la mia opinione, non per me, ormai l'ho detta, ma me la tengo e basta. Ringrazio Adriana Ceretelli e chiedo a Mario Pratero invece di aiutarci a capire dal punto di vista delle politiche economiche, e qui vengo a bomba al tema del programma, come si muoverà Trump, perché mi sembra di aver visto che attraverso un appunto, chiamiamolo così, rubato dalla CNN, che la CNN ha ottenuto, rubato no, diciamo, ottenuto dalla CNN, un memo del Transition Team in cui viene spiegato come il piano Trump romperà con le ali globaliste sia di repubblicani che di democratici, rigettando decenni di politiche commerciali concilianti, e questo è un documento che traccia anche le azioni per i prossimi 200 giorni, tra queste subito rinegoziare il NAFTA, che è l'accordo di libero scambio con Messico e Canada, o addirittura ritirare la presenza americana al NAFTA. Sulle politiche commerciali mi sembra di capire che Trump andrà dritto. O no? Sì, ma devo dire che la proposta di riaprire il NAFTA è venuta dal Messico. Il presidente messicano, in una delle tante chiamate che Trump ha ricevuto da leader stranieri, gli ha offerto di riaprire il negoziato sul NAFTA. E dunque questa alternativa fra globalismo e non globalismo, mm-hmm, direi sarà un elemento centrale, però non sembra che Trump alla fine sia disposto a rispettare tutte le promesse che ha fatto al suo elettorato. E quindi su questo dovremo riflettere e vedere come vanno le cose. Nel complesso lui si sta muovendo bene perché ha fatto scelte che sono più verso il centro. Ha scelto come capo di gabinetto del suo governo Priebus, non ha scelto Bannon, che è diventato stratega. Eppure qui tutti si preoccupano di Bannon, che era con Breitbart ed era... Perché è quello più razzista, diciamo. Quello più estremista di destra, razzista. Ma è stato anche il capo della sua campagna. Dunque è pensabile che Trump non faccia qualcosa a questo signore che ha guidato la sua campagna? No, lo ha detto lo stesso Obama. Però non gli ha dato, diciamo, un ministero chiave, diremmo. Esatto. In Italia. Beh, non gli ha dato nulla. Nulla gli ha dato. Lo ha fatto consigliere e stratega alla Casa Bianca, mentre invece Priebus ha un ruolo centrale. Dunque, io darei il beneficio del dubbio a Donald Trump da qui in avanti, nel senso che dovremo vedere, sarebbe un disastro per l'America se lui uscisse dalla politica della globalizzazione, perché l'architettura multilaterale è quella su cui l'America è costruita. Su questo, anche il fatto che i nomi sul segretario del Tesoro continuano a essere di personaggi legati o legati fino a poco tempo fa a Wall Street, quindi la piazza finanziaria, non dovrebbe essere un segnale che comunque questo segretario del Tesoro, insomma, terrà in considerazione anche gli interessi americani, ci mancherebbe, ma sul fronte del libero scambio? Guarda, sicuramente un uomo come Jamie Dimon, che è il capo di JP Morgan, non va a fare il segretario al Tesoro se non ha garanzie di un forte impianto multilaterale che è arrivato fino al G20 che ha lanciato Obama. Carl Icahn mi sembra molto improbabile. Carl Icahn è uno speculatore molto intelligente, molto bravo, ma è un uomo anziano, anche oltre Trump 80 anni. È uno speculatore. Sì, però Trump ha vinto delle elezioni, ha un mandato popolare e ha sorpreso tutti, ha preso in contropiede, come ci diceva la cara Adriana, tutti i governi europei. Cioè, non solo te, quindi. No, l'unico, come dicevo, l'unico che è riuscito, ci ho raccontato di questo articolo sul New York Times, Barrisoni, l'unico giornalista al mondo che aveva azzeccato. Non mi permetterei mai. Anzi, apriamo anche un piccolo slot pubblicitario. No, apriamo nulla perché devo sì, chiudere. Sì, la suite Barrisoni per l'albergo in Nigeria di Trump. Quello. Esatto. Comunque, tu dici, più probabile Jamie Dimon, mi sembra di capire, rispetto all'ex Goldman. Oppure Mnuchin, che era con Goldman Sachs, che però è più chiacchierato. Ma il migliore sarebbe Dimon, sarebbe un colpo molto importante per Trump. Anche perché Dimon disse di no già ad Obama a suo tempo, se non ricordo male. Dimon si tiene fuori, vuol fare il suo mestiere. Un altro fuori da Wall Street, e questa, come dicevi, non sarebbe una mossa sbagliata, è Robert Zoellick. Zoellick non è di Wall Street, è stato capo della Banca Mondiale, consigliere di Obama per le cose, però è uno aperto, è uno per la globalizzazione. Queste nomine saranno fondamentali per capire come si orienta l'amministrazione. E come cambia o si modifica eventualmente il programma di Trump una volta, diciamo, diventato esecutivo, diventato presidente degli Stati Uniti. Grazie anche a Mario Platero. Focus Economia torna domani dalle 17 in poi. Radio 24. Libera la voglia di fare.